sale verso te, questa mia preghiera a te ricorro, Vergine Maria, Madre di bontà, Regina di umiltà, tua speranza, non lasciarmi mai. Madre del cielo, bellezza infinita, tu luce di stella, sei pace di Dio, donna più bella fra tutte le donne, sei dolce madre mia. Tu Maria, che sei la vita mia, fra le tue braccia mi terrai, non abbandonarmi mai. Tenera madre, io in te confiderò, le tue grazie aspetterò. A te, solo a te, il mio canto salirà come una lode. Magnifica il Signore ed esulta nel suo Salvatore, che ha guardato l'umiltà della serva sua. D'ora in poi beata tu sarai. Madre del cielo, bellezza infinita tu, luce di stella, sei pace di Dio, donna più bella fra tutte le donne, sei dolce madre mia. Tu Maria, che sei la vita mia, fra le tue braccia mi terrai, non abbandonarmi mai, tenera madre, io in te confiderò, le tue grazie aspetterò. A te, solo a te, il mio canto salirà come una lode, piena di grazia, il Signore. Sei dolce madre.